Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno a voi e benvenuti. Obiettivo Salute con voi in diretta sino alle 11. Entriamo subito nel tema e diamo il benvenuto al professor Andrea Crisanti, già professore all'Imperial College di Londra e direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Professore, buongiorno. Il professor Crisanti non lo sento, ma arriverà. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per mandarci i messaggi o i vostri sms oppure i vostri vocali. Intanto che riprendiamo il collegamento con il professor Crisanti, vi ricordo che Obiettivo Salute ha anche una pagina Facebook in cui i nostri esperti ogni giorno postano i loro consigli, i loro video che ci aiutano a riprendere il passo e quindi a condurre uno stile di vita, un nuovo stile di vita in questa emergenza coronavirus. Professor Crisanti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Professore, lei intanto grazie per essere a Obiettivo Salute con voi. Professore, lei ha coordinato l'indagine epidemiologica di VO, che è uno studio, lo sappiamo, unico nel suo genere, mai fatto prima. Sulla base dei dati che avete raccolto, quali conoscenze avete acquisito in più sul virus e soprattutto quali indicazioni potete dare alla comunità scientifica impegnata a trovare soluzioni per arrestare il contagio, ma anche terapie per la cura del Covid-19? Guardi, diciamo, l'osservazione più importante è questa, che noi praticamente abbiamo trovato che 89 persone su 3.300 erano positive al virus, cioè erano infette. Questo praticamente è una percentuale del 3% che, mi permetta, era già un'enormità all'epoca, cioè il 20 febbraio. E la cosa più incredibile è che la maggior parte di queste persone erano totalmente asintomatiche. Su 88 persone soltanto 25 presentavano una sintomatologia, quindi soltanto 25 era possibile in qualche modo identificarle come positive. Quindi se avessimo messo in quarantena soltanto loro, a Vo ci avremmo ancora un'infezione, un'epidemia galoppante. Viceversa, l'identificazione di tutte le persone che in qualche modo erano infette e messe in quarantena ha permesso di bloccare completamente la malattia. Perché questo quindi dimostra, ecco, sì, professore, che si può essere infetti senza avere i sintomi, lo studio di volo dimostra, anche gli asintomatici possono essere una formidabile fonte di contagio, da qui la domanda, professore, sarebbe utile allargare i criteri per l'effettuazione del tampone, ma soprattutto a chi farli oltre ai sintomatici? Ecco, guardi, questa è una, lei pone una serie di quesiti di importanza. Io non la sento benissimo, quindi, prof, non ho detto, so se... Ho detto, sì. Volevo dire che la domanda può... in una sola domanda lei ha posto quesiti di carattere politico, scientifico e di implementazione. Insomma, ha, allora, fatto bingo, professore. Eh? Ecco, ogni tanto il neurone si accende. Grazie. Allora, inizio dalla parte più pratica, che è quella che ci interessa per l'Italia, cioè l'implementazione. Hanno un'utilità a fare i tamponi? Beh, sicuramente ha un'utilità a fare i tamponi perché permette di identificare intorno alla persona che è positiva, sì, quindi che è malata, identificare tutta la cerchia di amici, parenti e vicini se sono portatori sani, perché l'infezione da qualche parte sarà sorpresa. Sì. E quindi è chiaro che andando a fare il tampone, qui non si parla di tamponi a tappeto, ma si parla di tamponi mirati intorno alle persone, al circondario di persone che girano su quelli che sono le persone sintomatiche. Quindi noi quello che faremo e quello che stiamo facendo adesso, facciamo tutta una serie di tamponi intorno alle persone che sono sintomatiche, cioè che stanno male, che sono infette. Voi, quando, professore, lei mi dice, professore, quando lei mi dice voi, mi dice, cioè voi Veneto, ma o voi? Dico voi, ma guardi, abbiamo iniziato con Padova, comunque penso che questa è una politica che verrà adottata a tutta la regione, quindi non solo questo, ma poi faremo tamponi anche a categorie a rischio, chiaramente, che sono esposte al pubblico, proprio per la professione, il lavoro. Quindi che medici, operatori sanitari, infermieri, ma anche Infermieri, cassiere di negozi, poliziotti e così via, è chiaro? E poi, guardi, andare a fare la diagnosi a persone che stanno a casa malate piuttosto che lasciarle lì da sole ad aspettare in quarantena dà anche un segnale di instabilità e coesione sociale, perché noi dobbiamo pensare che questa epidemia sta generando tantissima ansia nella popolazione e quindi sapere che c'è una struttura che è in grado di rispondere e di dare delle risposte operative non solo crea coesione sociale ma dà anche un impatto sulla diffusione del virus. Professore, poi, ma secondo lei questo... Sì, no, mi scusi, l'ho interrotta, poi ho un'altra domanda. No, vada avanti, faccio la seconda domanda. Vado? Professore, ma questo modello, questo approccio, come lo possiamo definire, secondo lei potrebbe essere esteso a tutto il paese? Ecco, guardi, questa era l'altra parte della domanda a cui non ho risposto. Chiaramente questo modello, diciamo, l'identificazione dei portatori sani, quindi diciamo queste sono misure che vengono chiamate di profilassi, sono misure che hanno il maggior effetto all'inizio e chiaramente nelle fasi di contenimento dell'infezione. Quindi tanto meno casi ci sono, tanto più effetto ci hanno chiaramente. E questo comunque lo dimostra il fatto che il Veneto, avendo adottato questa strategia fin dall'inizio, ha un andamento della curva che è molto diverso da quello delle altre regioni, dove è iniziato per primo. Ora, è chiaro che per implementarlo su scala nazionale c'è bisogno di un grosso investimento, c'è bisogno di adattare tanti laboratori, quindi non è una cosa che può venire da un momento all'altro. Ecco. Certo. È avvenuta in Veneto perché il Veneto poi aveva la fortuna di avere appunto un laboratorio dell'Università di Padova, che è appunto uno dei punti di laboratorio di riferimento per le malattie emergenti, quindi ha una struttura che non può essere facilmente replicata su scala nazionale. Però un'indicazione per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che non vivono in Veneto, ma che naturalmente hanno seguito con interesse i suoi messaggi, le sue riflessioni a voce alta, le constatazioni sulla base dei dati. Professor Crisanti. Ma io dico che, ecco, guardi, la notizia che volevo dare era che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità finalmente ha cambiato politica e ha dato delle direttive dicendo che gli stati in cui c'è l'epidemia devono implementare delle misure di sorveglianza attiva attraverso la diagnosi con i tamponi. Quindi è sicuramente ci vorrà del tempo, ma io penso che è una cosa che progressivamente verrà adottata. Quindi è una delle armi che noi abbiamo per combattere l'epidemia. Guardi, quindi lavorare sugli asintomatici, scovare gli asintomatici. Guardi. Professor Crisanti, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, ci sentiamo sicuramente presto. Grazie. Grazie a lei. Grazie. A voi. 349-238-6666, potete intervenire, fare domande, le leggeremo tra poco ai nostri esperti della CIMIT, potete fare segnalazioni, avere magari dei chiarimenti o approfondire una notizia che vi ha colpito. In questi giorni grande interesse ha suscitato la possibilità di utilizzare il plasma di pazienti guariti dal Covid-19, quindi un plasma con alti livelli di anticorpi, per aiutare i pazienti gravi. Ne parliamo col dottor Massimo Franchini, che è direttore del servizio trasfusionale dell'ASSTT di Mantova. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per essere con noi. Dottore, i pazienti guariti potrebbero curare quelli infetti, quelli malati, e questo è un po' il concetto che sta alla base dell'utilizzo di quello che viene chiamato plasma di convalescenza. Ci vuole spiegare? Ecco, non è un concetto nuovo questo, perché in corso di gravi epidemie o pandemie come è questa, il plasma di persone guarite si è rivelato una fonte di anticorpi e quindi ecco che il paziente guarito può a sua volta curare, essere d'aiuto a chi invece purtroppo è ancora ammalato. E tecnicamente si chiama plasma convalescente iperimmune anti-Covid-19. Cosa si intende? Si intende che i pazienti che hanno avuto la fortuna, che sono guariti da questa infezione, hanno sviluppato degli anticorpi che si trovano in livello molto elevato. Questi anticorpi possono essere utilizzati, possono essere utili trasfondendo il plasma di queste persone e essere utili per curare persone che invece ancora sono affetti da forma polmonare che è molto grave di questa malattia. È ovvio che il paziente quindi deve essere però guarito. Deve essere guarito assolutamente. e quindi dobbiamo applicare tutti, diciamo, i criteri di guarigione, quindi devono essere passati almeno 14 giorni e il paziente deve avere due, secondo i criteri dell'OMS, almeno 14 giorni dalla scomparsa dei sintomi, secondo i criteri dell'OMS devono essere due tamponi negativi per il virus a distanza di almeno 24 ore uno dall'altro. Ecco quindi che in questo caso qui il donatore è il paziente che diventa donatore è perfettamente sano, ha recuperato dalla malattia e può il suo plasma essere utilizzato per pazienti ancora ammalati. Ecco, dottor Franchini, da quanto lei ci racconta, mi sembra di capire che il plasma convalescente è una sorta di farmaco e a tutti gli effetti un prodotto terapeutico che viene ottenuto da procedure che ne garantiscono la sicurezza per chi lo riceve, è corretto? Assolutamente. Allora, noi siamo centro partecipante, stiamo partecipando a un progetto che vede come capofila il Policlinico San Matteo di Pavia. Sì. È un progetto della Lombardia che prevede appunto la produzione di questo plasma, però con criteri rigorosi trasfusionali, e anzi vorrei ringraziare il dottor Giancarlo Giungruno, direttore del Centro Nazionale Sangue, che ci ha aiutato, sì, del CNS, che ci ha aiutato a individuare i criteri per la selezione di questi pazienti che sono diventati donatori. Abbiamo dei criteri molto stringenti, assolutamente rigorosi. Noi produciamo in questo modo qui un plasma di grado farmaceutico, possiamo chiamarlo tutti gli effetti un farmaco per il trattamento di questi pazienti. Dottore, un'ultima domanda, dato che l'OMS, lei ci ha detto, ammette anche nei casi di gravi epidemie, no? In cui non esistono terapie consolidate disponibili, l'utilizzo qui di plasma dei pazienti guariti, ne stiamo parlando, ricco di anticorpi per la cura dei malati, possiamo aspettarci che sarà presto una strada percorribile? Che tempi prevede? Per quali tipologie di pazienti? E poi la saluto. Allora, dato per insomma, accertato che, considerato che per il Covid-19 non esiste un trattamento consolidato, una terapia, ecco che il plasma convalescente può essere una risorsa terapeutica. È stato utilizzato in altre infezioni. Il coronavirus è noto da almeno 20 anni come virus, è scatenato 15 anni e nel 2015 gravi diciamo problemi, gravi malattie che sono state curate con il plasma con successo in maniera efficace. Quindi da noi, professore, tempi? Allora, i tempi ovviamente... Che io non ho più tempo, che devo dare la linea? Ecco, i tempi diciamo che entro 10-15 giorni dovremmo essere pronti, le prime unità di plasma pronti per la trasfusione. E allora lei ritorna da noi, dottore, prenotato, l'aspetto. Assolutamente, mi dà un secondo? No, non me lo dà. Sì, glielo diamo. Io sono trasfusionista, volevo ringraziare tutte le centinaia di migliaia di donatori di sangue che stanno donando ancora e volevo appunto raccomandare andate a donare perché abbiamo bisogno di sangue per gli interventi urgenti. Grazie. Sì, abbiamo fatto un'intervista anche al dottor Giungruno che potete trovare proprio nell'archivio di Obiettivo Salute. Grazie al dottor Franchini. Andiamo subito sulle informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme con gli esperti della SIMIT e rispondiamo alle vostre domande. Obiettivo Salute. Veloci, siamo tornati proprio per dare il benvenuto al professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della SIMIT. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai ascoltatori. Adesso sentiamo radioascoltatori. Professor Andreoni, tante domande, ne faccio a botta e risposta in modo che Fabio, il nostro amico, ci scrive: Nicoletta, di qualcosa per favore sulle scarpe, ne abbiamo parlato ieri, professore, queste scarpe con cui camminiamo fuori solo le volte che usciamo per fare la spesa, andare in farmacia o al lavoro, ritorniamo a casa, che ne facciamo di queste scarpe? Cambiarsi le scarpe quando uno arriva a casa è sempre una buona norma igienica, diciamo, quindi è un consiglio da dare in termini generali. Il rischio che le scarpe ci portino il coronavirus oggettivamente è assente, non è questo il problema. Però cambiarsi le scarpe quando l'igiene, si entra a casa, ecco, l'igiene non è mai troppa. Ma chi è asintomatico, ci scrive Ivan da Bologna, sviluppa il virus o lo supera così, contagiando gli altri e basta? Professore. Allora, gli asintomatici hanno il virus che replica nella loro gola, nei loro polmoni, ma in maniera molto modesta, tanto che non dà malattia. E quindi la probabilità di trasferire il virus ad altre persone esiste, ma è molto scarsa, quindi non sono dei grandi trasmettitori di virus. Un ascoltatore già ieri mi ha scritto una mail un po' indiavolato, mi dice di chiedere a lei come ci si comporta al ritorno della spesa con gli alimenti che sono racchiusi in delle confezioni. Che dobbiamo fare? Diciamo, innanzitutto ricordarci sempre che è il lavaggio delle mani, quindi quando uno torna, che è stato fuori, ha fatto la spesa, la prima cosa deve lavarsi le mani. Se si stanno all'interno di cartoni più grossi e via dicendo, uno tira fuori gli alimenti, butta il cartone e nuovamente si lava le mani. Comunque, tenendo presente che sono usciti tanti dati che fanno vedere che il virus può rimanere sul cartone, può rimanere sulla plastica, può rimanere sui tavoli, ma normalmente il virus che troviamo in questi posti è talmente poco che non riesce, non ha una sufficiente carica per infettare le persone. Però il consiglio, più che preoccuparsi del cartone e degli alimenti, è ricordarsi che un lavaggio in più delle mani è sempre il sistema migliore per non trasmettere il virus alla nostra bocca, perché poi il problema è sempre il portare le mani alla bocca. Però direi che il trasportare cartoni a casa non è un problema. Professore, un'ultima domanda, se la riusciamo a sentirla, perché la voce è un po', purtroppo, va e viene. Abbiamo sentito che il virus si diffonde da una persona all'altra. Ma se rimanere nella stessa stanza con una persona che non sappiamo se è sintomatico, se ha il virus o no, può essere un fattore di rischio mantenendo la distanza di un metro, ma all'interno di una stanza? Allora, no, nel senso che se stiamo a distanza di un metro e mezzo, quella persona non sternutisce e non tossisce, siamo tranquilli. Ok. Sternutisce e tossisce, comunque mantenerci distante ci protegge. Grazie professor Andreoni, ci sentiamo presto insieme agli esperti della CIMIT che ci accompagnano ogni giorno per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Buona giornata, grazie. E in linea con noi ci ha raggiunto Maria Giovanna Luini. Ciao Maria Giovanna. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E nei giorni delle misure precauzionali bisogna aiutarci anche un po' a condurre una vita quanto più normale, a riprendere un po' il passo, ed è quello che tu suggerisci anche con il tuo ultimo libro, La via della cura, 23 passi per superare le prove della vita e ritrovare l'equilibrio. E noi l'equilibrio dobbiamo ritrovarlo e mantenerlo, Giovanna. Assolutamente dobbiamo ritrovarlo, sarà un equilibrio un po' diverso da prima, perché non possiamo fare finta che certe cose non stiano accadendo, però siamo capaci. Tu sai che credo moltissimo alla potenza delle emozioni sulla salute del nostro corpo, ma anche sull'immunità. Il nostro sistema immunitario risponde a stimoli interni, chimici, che dipendono anche da come affrontiamo uno stress. Ecco perché, nel totale rispetto ovviamente delle indicazioni mediche che condivido e io stessa applico, però credo che non sia sufficiente affidarci alle protezioni esterne. Dentro di noi c'è la possibilità di influenzare il sistema immunitario e affrontare questo momento senza che travolga totalmente il nostro corpo e la nostra psiche, che poi in realtà sono strettamente connessi. Sì, sono le due facce di una stessa medaglia, sì, vero? Esattamente, noi siamo corpo e siamo emozione, siamo corpo e siamo psiche, siamo tutte e due le cose insieme, in realtà sono la stessa cosa. Ecco perché prenderci cura del corpo è anche prenderci cura della psiche, della mente, del pensiero, delle emozioni, usate la parola che volete. Quindi mi sono inventata alcuni esercizi ulteriori rispetto a quelli che già sono nel libro che tu hai citato, e questi esercizi servono per noi che siamo in casa, certo. Tutti noi che siamo in casa. Io resto in casa. Certo, per usare al meglio pensiero, emozioni, ma anche le mani, per fare cose che non ci portino fuori da un equilibrio che oggi è più che mai necessario. Un nuovo stile di vita ai tempi dell'emergenza. Sì. I video di Maria Giovanna Luini li trovate naturalmente nella pagina Facebook di Obiettivo Salute, in cui abbiamo chiesto a tanti esperti e tanti amici della trasmissione di darci il loro contributo, perché passo dopo passo affrontiamo la quotidianità insieme. Grazie Maria Giovanna Luini, buona giornata. Ciao. E saluto il mio medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Erzegovesi. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Buongiorno. Anche oggi la ricetta è pubblicata sulla pagina di Obiettivo Salute, una ricetta che ci aiuta a fare il pieno di un antiossidante molto potente che è presente nelle famiglie delle crocifere. Dottor Erzegovesi, sempre più difficile, in un minuto. Se diciamo la potenza della mente, ma anche la potenza del broccolo, cioè bravo, consideriamo che tutte le crocifere, quindi i broccoli, i cavoli, il cavolo nero, la cima di rapa, la rapa, il rapanello, la rucola e mille altri, hanno un effetto specifico, preziosissimo in questo momento, che è l'effetto di stimolare l'immunità, aumentare le nostre capacità disintossicanti e soprattutto potenziare l'effetto antiossidante, che noi sappiamo in questo momento è prezioso per tenere bassa l'infiammazione. La ricetta di oggi, ci dica solo il titolo: pasta con broccoli e pinoli, che piace anche ai bambini, e provatela. Provatela e poi fateci sapere se l'avete trovata buona. Grazie a Peter Bescapè in regia, la parte tecnica, in assistenza Anita Panizza, in redazione Laura Vanossi. Grazie, buona giornata, a domani.